come prima cosa vorrei esprimere la mia solidarietà a tutti i giornalisti e le giornaliste che sono stati destinatari di un esposto alla disciplinare dell'Ordine dei giornalisti per aver denunciato crimini commessi a Gaza e commessi in Cisgiordania. Io penso che tra le tante vittime della situazione a Gaza ci sia anche l'informazione. L'informazione è vittima perché intanto il governo Netanyahu ha impedito ai giornalisti internazionali di entrare nella striscia e questa è una violazione pesantissima del diritto di informare e di essere informato. Poi perché di fatto sono stati massacrati i giornalisti e le giornaliste palestinesi, massacrati. E poi perché chi al di fuori della striscia ha cercato di parlare un linguaggio di verità ne ha dovuto pagare le conseguenze. Quindi è una vittima l'informazione, è una vittima del genocidio. Ora a Gaza i giornalisti e le giornaliste sono stati trattati come terroristi. Quanti ne sono morti? Guardate, non è neanche facile saperlo con precisione. OCHA dà il dato di 262 vittime, altre fonti, io ieri ho fatto una ricerca, parlano di 300 morti. Io ho lavorato in zone di guerra per molti anni, non mi è mai capitato di vedere una guerra con così tante vittime di chi faceva informazione. Questa situazione non ha precedenti. Normalmente la stampa viene salvaguardata quando c'è un conflitto. Io voglio ringraziare Nobavaglio, Articolo 21, la FNSI, perché sono state le uniche voci che hanno espresso solidarietà ai giornalisti e alle giornaliste palestinesi, perché hanno chiesto protezione per loro e perché hanno chiesto che venisse dato accesso alla stampa internazionale. Poche altre voci ho sentito da questo punto di vista. L'informazione mainstream del cosiddetto Occidente ha toccato una tappa molto poco, diciamo, lusinghiera nella copertura del genocidio. Sono state fatte omissioni, sono stati coperti crimini, sono state lasciate indietro le parole che dovevano essere usate. Pochissimi hanno avuto il coraggio e la schiettezza di usare l'unico linguaggio possibile, senza fare sconti, di argomentare anche sul tema del genocidio. E chi l'ha fatto, come ho detto, è stato oggetto di intimidazioni. Vogliono togliere voce a chi parla il linguaggio di verità, ma io penso che la denuncia dovrebbe essere per chi non dice le cose come stanno, per chi le tace. Bisogna sanzionare quei giornalisti e quelle giornaliste che non hanno raccontato la verità. Se ha un senso avere un ordine dei giornalisti, allora quel senso sta nel sanzionare chi ha omesso di fare il mestiere in base alle regole deontologiche che oggi sembrano completamente dimenticate. L'ultimo tentativo di silenziare, ancora più pressante, c'è stato quando è iniziato il DDL sull'antisemitismo al Senato. Quella discussione lì, gli esposti mi hanno detto, sono aumentati in concomitanza di quella discussione su quel DDL antisemitismo. Io credo che sia un DDL sbagliatissimo, che mira alla censura, mira a equiparare la critica anche aspra nei confronti del governo israeliano all'antisemitismo. Non c'è nulla di più sbagliato e di più fuorviante. E quindi mi auguro che voi giornalisti e giornaliste andrete avanti con determinazione, che non vi farete intimidire, che non ci può essere nulla che possa avere la meglio rispetto alla verità, perché ci chiederanno conto di questo tempo. E io spero che appunto chi si è schierato fin dal primo momento venga tolto dalla lista della vergogna.